Yo, si, si, si, si, de comme si. Mike Jack, Mike Jack. Si sconsiglia l'ascolto ai deboli di cuore. Di cuore. Perché? Se fotti col decone portati le bende. C'è il flow cannibale, che arriva e ti prende. Terra terra vero vero papale papale. Lo stile letale come un razzo intercontinentale. Cerco un produttore, si presenta Terminator. Doc Deco Prof assieme a Martin Alligator. The Doctor in fuga assieme a Sarah O'Connor. Dai fagiani lecca culo tipo agente Proctor. Tutte addosso a sto guaglione che spacca in ogni canzone. Che parla della nazione, che blocca l'evoluzione. La libera espressione è finita nel calderone. Per farcire la pozione che triplica la tensione. La danno alle persone mischiata con i sorrisi. Con la plastica sui visi, più belli ma più divisi. L'unione fa la forza e su in alto lo sanno. Infatti ad ogni aggregazione procurano un danno. Ehi ruvido, che ti graffi anche il midollo. Quando senti la pressione del suono sul collo. Altro che tranzollo, inizia a preoccuparti. Prima di ritrovarti macellato in quattro quarti. In quattro parti, il primo festeggia la mia venuta. Il secondo lo spessore di ogni rima contenuta. Il terzo l'evasione da questa sporca visione. Di ragazzi che ai concerti sembrano vecchietti in pensione. Vogliono soldati griffati, deconcentrati. Li vogliono programmati, depressi e determinati. Quasi tutti squattrinati o al limite del decoro. Così per un lavoro si sbranano tra di loro. Intanto loro parlano, parlano, parlano. Ovunque tagliano, tagliano, intanto ci guadagnano. Tu fumi e non ci pensi, ti senti contento. Io quando fumo lo scimmione prende il sopravvento. Infatti salto di regione in regione con la passione d'una rabbia nella gola che esplode in ogni canzone. Il cuore scoppia in petto pensando all'insurrezione. La penna sopra il mio foglio traccia il piano per l'azione. Lo sforzo nel pensare che forse posso fidarmi. Mi ha bucato l'intestino e mo devo operarmi. Infermiera, prego macete e tenaglie. Fate un'altra recensione con le mie frattaglie. Ehi ruvido, che ti graffi anche il midollo. Quando senti la pressione del suono sul collo. Altro che tranzollo, inizia a preoccuparti. Prima di ritrovarti macellato in quattro quarti. In quattro quarti, il primo festeggia la mia venuta. Il secondo lo spessore di ogni rima contenuta. Il terzo l'evasione da questa sporca visione. Di ragazzi che ai concerti sembrano vecchietti in pensione. Tanto splatter che vi tinge di rosso pure il golfino. Fa venire il volta stomaco anche a quel di Tarantino. Ragazzi chiacchieroni fabbricati in serie. Mario cerca il tuo successo ma è chiuso per ferie. Bravi tutti quanti gli artisti emergenti. Soprattutto se poi comprano i complimenti. In questo mare di campioni sono pochi quelli buoni. Quando rompono i coglioni si cambiano i soprannomi. Ciao.